Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Non lo sapevate che c'è uno sciopero generale? Dai, fate giù, che così almeno anche voi cooperate. Ragazzi, anche voi dovete essere con noi. Il blocco del paese. Dobbiamo fare gruppo stavolta, se vogliamo ottenere qualcosa. Con noi! Siamo noi il popolo! Io ho un'attività come la tua, l'ho tenuta chiusa! Minchia! Cazzo Dio! Prendiamo due chiacchiere, tanto! Ascolta, ma negozi... Gli apriamo la mente, perché mi sa che non ho capito. No, perché siccome gli dici per chi, per cosa, noi siamo proprio per acquistare. Oggi torno su quello che era l'argomento di ieri, le proteste che stanno a tappeto interessando tutta l'Italia. Inutile che vi cito le cronache poi lo faranno i colleghi della redazione del giornale radio, vi informeranno puntualmente su quello che sta accadendo. In tutti i quotidiani continuano a uscire le mappine con quello che sta accadendo in varie parti d'Italia. Ma mi soffermo su un video che è stato ieri trasmesso nel sito di Repubblica, che riprende un episodio accaduto a Torino che pare che sia diciamo paradigmatico di quello che accade anche nelle altre città d'Italia. Due negozianti sono stati costretti a tirare giù la sala cinesca del loro negozio da un gruppo di persone. Non c'è stata violenza al punto tale che gli hanno messo le mani addosso, e tutti quelli che hanno commentato questo video dicono: beh, cosa dite, in fondo mica li hanno menati, grazie. Però li hanno costretti, un gruppo di persone, a tirare giù la sala cinesca. Le argomentazioni erano: la gente ha deciso che bisogna tirare giù le saracinesche. Questi dicono: ma quale gente? Come la gente? Scendi a vedere, l'hanno tirate giù tutti, grazie. Erano passati e l'hanno fatte tirare giù a tutti gli altri. Ora sarà un episodio minimo, voi direte: vabbè, ma che vuoi che sia, che sarà mai? Ma quello che mi ha colpito è che non erano manifestanti, era gente veramente, insomma, gente comune. Fra di tutti la più assatanata, la più arrabbiata, era una signora anziana con i capelli bianchi che era inviperita contro questi. Dice: ma vi rendete conto di tirarla giù perché io muoio di fame? Io pensavo: ma questa signora comunque sia una pensione, lei ce l'ha, comunque lei non gliela toglierà nessuno la pensione ancora, il problema magari è per gli altri. E pensavo, dico, ma questo può passare tranquillamente, impunemente, che esista la gente che decide quello che bisogna fare? E chi è la gente? Beh, oggi vorrei tornare ancora sull'argomento di ieri. Vi pregherei di dare il vostro contributo. Come voi sentite quello che sta accadendo, anche se la vostra città non è stata lambita, anche se la vostra città non è stata toccata, da quello che leggete, da quello che sentite, un domani sarete anche voi, come la signora con i capelli bianchi, che andrete con un gruppo di persone anche abbastanza ben robuste a una persona, a obbligarla a tirare giù la saracinesca del suo negozio. Perché? Perché lo vuole la gente. 800 24 0024, aspetto le vostre risposte. Mi stanno tagliando il gas, io non ce la faccio più. L'invasione nelle intenzioni pacifiche dei forconi si sposta a Roma. Se verrà votata la fiducia al governo, i politici non andranno via, tutti i forconi d'Italia convergeranno nella capitale. A ribadirlo è Danilo Calvani, uno dei leader del movimento. Il 9 dicembre fermiamo l'Italia dopo due giorni di blocchi in tutto il paese. A Torino, epicentro della protesta, piazze e strade paralizzate dai cortei. Sotto tra le voci di osservatori, studiosi, persone competenti nell'analisi dei fenomeni che vengono più superficialmente poi raccontati sui giornali, mi ha colpito quello che ha detto Giuseppe Berta, che è un docente di storia contemporanea all'Università Bocconi di Milano, che in una sua intervista online ha fatto un'analisi, lui da torinese, di quelle che sono state le azioni dei cosiddetti componenti del movimento dei forconi, e secondo lui faranno scuola. C'è una razionale tecnica di azione sul territorio e allo stesso tempo di riverbero sui media. Professor Berta, buongiorno. Buongiorno. Non so se ho interpretato bene l'intervista, l'ho visto questa mattina online. Lei da torinese l'ha vista in azione, ha detto questa non è una cosa del tutto improvvisata, ma c'è una tecnica che secondo lei diventerà un modulo ripetibile. È per l'efficacia. Nel senso che si sceglie lo spazio urbano, l'area metropolitana, come un luogo nevralgico per i flussi di traffico che è possibile paralizzare con alcune azioni mirate, magari con poca gente, poche persone, perché il movimento è fatto nelle sue articolazioni di base, da quanto ho visto io, da poche persone che però si interpongono rispetto ai flussi di traffico nei punti giusti, nei gangli della città, del sistema delle comunicazioni metropolitane nodale, da un lato sui mercati e dall'altro rispetto agli snodi principali intorno a cui si avvolge il traffico. Quindi, ma la tecnica, da quanto mi dice lei, sarebbe una tecnica ben studiata, non improvvisata, sì, non, è poi, non è spontanea. Mi ha portato alla mente, almeno chi alla mia età purtroppo, la fine degli anni 70. Io ricordo in particolare a Torino, in ben altro contesto e con dimensioni più massicce, il contratto dei meccanici del 79, quando i giovani, quelli che venivano chiamati il fondo del barile, uscivano dalle fabbriche e paralizzavano a scacchiera la città, ma era un altro contesto, soprattutto un altro contesto politico. Qui invece io ho colto da un lato il fenomeno a cui accennavamo poco fa, dall'altra il fatto che il successo di questo tipo di agitazione richiama, diciamo così in modo semplice, tutti coloro che hanno voglia di menare le mani, cioè dagli ultras del calcio a qualche nucleo di centri sociali, a delle fasce di estrema destra. Sì, insomma, quello che stamattina quindi sottolineano i giornali, che la sinistra antagonista fianco a fianco con la destra radicale. Esattamente, ma perché c'è un, come dire, un richiamo della foresta, che è quello, c'è un'occasione per assumere quasi delle forme da sollevazione urbana. Però torniamo alla sua analisi, che è molto interessante. Questa mattina non l'ha colta nessuno, invece a me interessa. Quindi io azzardo un'ipotesi, poi lei me la conferma o me la rettifica o me la smentisce. Poche persone ben addestrate nell'uso anche del riverbero sui media, delle azioni, compito delle azioni che fungono da catalizzatore, che poi, diciamo, il popolo bue ci si accoda naturalmente, perché è bello far casino. Non so se lei ha visto i video che girano dei commercianti costretti a abbassare la saracinesca. Guardi, una signora anziana satanata che gli dice butta giù la saracinesca, ti spacchiamo tutto. Questo proprio lunedì mattina, io vivo in uno dei punti importanti della città, Piazza Statuto, che stata più volte bloccata. Allora, uscendo intorno alle 9:30 di casa, vedo un gruppetto di 15 persone, non di più, ma molto determinate, anche con un aspetto molto risoluto, diciamo così, che imponeva ai negozianti, che ancora non avevano tirato più le saracinesche, molto brutalmente gli imponeva chiudete, e questi che poveretti che dovevano fare? Anche, voglio dire, anche le edicole, che pure avevano a quell'ora molti giornali da vendere, anche il panettiere che aveva fatto il pane, e avanti così. Quindi anche una conoscenza di quelli che sono i meccanismi di attenzionamento sui media. I portatori sanno dove sono i flussi del traffico, sanno come funzionano i mercati della frutta e della verdura, i mercati alimentari, i centri commerciali. Sono persone che si muovono proprio dentro il flusso del traffico, e allora facendo leva su questa, diciamo così, conoscenza di categoria, possono, secondo me, efficacemente, se vogliono, fare delle azioni di interdizione della funzionalità urbana. Ma questo necessita un coordinamento, non può essere spontaneo. No, mi è parso infatti che fosse studiato bene, e mi è parso anche, se posso dirlo, che la polizia, nonostante le forze dell'ordine, nonostante le dichiarazioni preliminari, non avessero colto l'entità, o comunque non avessero in pieno compreso la portata, che, come ha detto il sindaco di Torino, Fossino, è stato un impatto duro per la città. La città è stata sconvolta, perché sa, se lei mette 5 cassonetti in mezzo a una piazza, in mezzo a una strada, lì si forma in 10 minuti nel centro di Torino una coda di 20 autobus, 10 tram e così via. Ecco, professor Berta, l'altra cosa che mi interessava sapere da lei è se nella sua analisi, nei suoi studi, nei suoi approfondimenti, esistono dei modelli anche all'estero simili. Molti hanno fatto il paragone, le dittature sono nate così, è successo con Pinochet, che hanno cominciato gli scioperi dei camionisti, poi si è arrivato a quello che si è arrivato. Sì, è azzardata questa tesi? No, nel senso che certo, si scrive nel quadro di un paese che sta perdendo in pieno la propria governabilità, e arriva, diciamo così, da questo punto di vista nel momento giusto, in quando non ci sono prospettive politiche, non si sa bene cosa sia il sistema politico, non si sa bene quale sia la forza, l'efficacia e la tutela del governo, non si sa come e chi ci porterà un giorno alle elezioni. Tutto questo capita nel momento opportuno, ma sorprende poi, aggiungerei, anche la richiesta che viene fatta, no? Anche per oggi: se il governo non cade, noi continueremo e inesploreremo questa lotta. Ma la caduta del governo di per sé significa semplicemente che aumentano l'ingovernabilità, non che si creino delle condizioni migliori per revocare la pressione, per rallentare la pressione fiscale. Allora, in questo quadro, professore, poi la lascio in pace. Il titolo che oggi mettono tutti i giornali della dichiarazione di Alfano, non tollereremo le città in fiamme, sembra quasi la promessa di una linea dura. Cosa potrebbe causare? Capita, secondo me, non nel momento opportuno, perché era già stato detto la domenica sera, lei ricorderà, useremo gli idranti, e poi gli idranti non si sono visti da nessuna parte, anzi abbiamo visto che si è cercata la distinzione, a me è parso, in base alle esperienze di questi anni, che le forze di polizia abbiano pensato bene di cercare di ridurre la tensione invece di accentuarla con delle misure di fermezza. Dunque queste dichiarazioni rischiano di avere un effetto controproducente, cioè di non essere seguite da atti, e perciò di rendere ancora più dura e più efficace la protesta organizzata. Grazie professor Berta, grazie saluto. A lei, buongiorno. Ecco, io ho dato un'occhiata a quelli che sono gli sms che sono arrivati nel frattempo e individuo due grandi filoni, quelli che da una parte mi dicono la manifestazione ufficiale, gli organizzatori ufficiali delle manifestazioni hanno preso le distanze da queste azioni di disturbo, chi invece mi fa un elenco di situazioni che ha visto piuttosto critiche, chi mi dice di un signore molto anziano a cui sono state tolte le chiavi della macchina, è stato minacciato, chi mi continua a raccontare di episodi di persone costrette ad abbassare le saracinesche del proprio negozio, chi poi cavalcando in pieno quello che è lo spirito forse più bieco di tutto quello che sta accadendo dice: tu parli bene perché ce l'hai il lavoro, vorrei vedere se tu avessi fame. Non è detto che possa trovarmi anch'io ad avere fame, e può essere anche molto presto magari, però quello che volevo far capire è che in realtà non esiste una unica possibilità di definire quello che sta accadendo, e questo mi preoccupa molto. Per quanto gli analisti si sforzino, per quanto cerchino di dare letture, previsioni e via dicendo, non esiste un pensiero unico su quello che sta accadendo, e quando non c'è un pensiero unico c'è sempre qualche pensiero nascosto. 800 24 00 24, dopo il traffico la vostra voce. Melog, cronache meridiane. Non è più questione di categoria, le qua sono tutte le categorie che hanno delle problematiche, a iniziare dai commercianti, dagli operai, dai pensionati, i pensionati che prendono 5, noi lavoriamo con i pensionati, prendono 500 euro al mese, come fanno a vivere? Noi siamo degli ambulanti di un mercato rionale di Torino. Siamo qua perché 800 24 00 24, mando qualche assaggio alle tante interviste che sono fatte nei luoghi caldi della manifestazione, delle manifestazioni questi giorni, però per quanto io abbia memoria storica degli ultimi decenni, e la mia memoria storica va indietro, sono del 54, non ricordo mai un momento così in cui non ci fosse una definizione generale, una definizione di orientamento rispetto al malessere generale. Il malessere c'è sempre stato, ma ha sempre avuto, diciamo, delle canalizzazioni attraverso dei movimenti definiti, sapeva chi fossero, si contrapponevano le parti. Qua non c'è contrapposizione, ci sono delle parole di passo molto vaghe, sono quelle che leggo negli sms: è ora di finirla, basta con il governo, basta con i privilegi della casta, tutto giusto, tutto sacrosanto, ma qual è il fine di tutto questo? Poi circolano nella informazione sempre molto sommaria e molto basata sull'emotività notizie strane: a Roma è ferma la metropolitana B per un tratto, ci sono voci contraddittorie, naturalmente ci sono le dichiarazioni ufficiali che è un guasto, poi pare siano degli operai di una ditta esterna a cui era stato appaltato i lavori, stanno protestando, ma già la voce che circolano per i corridoi della mia redazione sono stati i forconi che hanno bloccato la metro B. Come vedete si sta creando, si sta concretizzando qualcosa rispetto a un grande portato emotivo. I forconi, chi sono i forconi? Sono tutti, non è nessuno. Rossana, buongiorno. Anzi no, Rosanna, scusi, Rosanna. Rosanna, buongiorno. Lei sa chi sono i forconi? Sì, allora io chiamo da Viceglie, in provincia di Bat. Abbiamo un'attività commerciale e ci stanno impedendo da ieri mattina di aprire i nostri negozi. Chi in particolare? Chi ve lo sta impedendo? Minaccia. Chi ve lo sta impedendo? Delle persone che partecipano alla manifestazione e che passano per le vie del centro e anche in periferia obbligandoci a chiudere. Questo dove avviene? Mi ripete esattamente in che provincia avviene? in provincia Bat, Barletta Andrea Trani. Quindi non è soltanto a Torino, come vede, da Torino si sposta la Puglia. Sì. Il meccanismo è lo stesso, passano, ma hanno una qualificazione politica, una bandiera, in chi sono classificati? Assolutamente, il problema è che non ne stanno parlando, perché parlano solo di Torino, di queste grandi città, ne stiamo parlando adesso. Delle nostre parti no. E quindi accade la stessa cosa, che passano per i negozi e fanno tirare giù, e vi dico chiudete sì, il negozio. Ho saputo anche che ad Andrea addirittura hanno creato danni ad alcuni negozi. Noi siamo d'accordo con i valori della protesta, perché anche noi siamo stanchi, non possiamo, stanno chiudendo tantissimi negozi in Puglia, soprattutto dalle nostre parti, anche per l'invasione di tutti i centri commerciali che sì, però adesso non allarghi il problema, mi racconti, ma raccontate quello che sta accadendo, la sua realtà, che in provincia di Bari esiste esattamente quello di cui abbiamo parlato questa mattina, che sui giornali c'è, che a Torino passano persone, fanno chiudere con minacce, perché obbligare una persona a fare una cosa che non è nella sua volontà è comunque minacciarla. Marco, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io ho sentito parecchie discussioni sia in rete sia da voi stamattina, sono di Torino, le cose non sono tutte così, allora ci possono essere le teste calde che con arroganza dicono il commerciante tira giù la serranda. Che però è un dato di fatto. È un dato di fatto, ma si parla di esemplari, mentre il resto delle persone magari non lo fa. E quindi è come l'esempio lampante di quando succede qualcosa si vede solo la cosa brutta. Sì, però lei mi conferma la tendenza, diciamo, dei nostri SMS. Una parte di persone dice... Una parte di questo può essere vero, cioè se tu prendi su 1000 persone, ne prendi 10 che fanno casino, sicuramente loro sono quelli che verranno adocchiati di più. Non c'è niente da fare. Quindi lei dice c'è un movimento generale, un movimento pacifico di protesta. Ma qua ci sono tutte le persone. Trasversale. C'è dall'operaio allo studente, al commerciante, all'artigiano. Qua ci sono tutti. Ma intorno a cosa le persone scendono in piazza? Se solo scende in piazza, qualcuno chiama in piazza le persone. Chi chiama in piazza? Allora, secondo me c'è ancora timore. Lo chiedo come domanda, non ho preconcetti, voglio sapere. No, secondo me ci si aspettava anche che io sono un artigiano. Io ho tirato giù perché di mio io era convinto, hai fatto bene, cioè. No, è certo che ne sono convinto, dico nella mia disponibilità mi rendo partecipe della cosa, perché è giusto che io non vengo neanche massacrato con l'80% di tasse, mi sono un po' stufato, piacerebbe portarmi oltre la pagnotta a casa anche due soldini, insomma. Quindi questo per lei, diciamo, è una maniera per dare 14 ore e pagare i dipendenti e io in poche parole guadagno meno dei sì, ma scusi, questa mattina, siccome ho poco tempo, volevo tenermi al fatto pratico. Lei pensa che aderendo alla protesta dà un segno tangibile comunque del suo disagio, cioè finalmente un'occasione per far vedere che io soffro di un disagio, siccome nessuno mi sta a ascoltare, scusi se la interpreto, mi dica se è giusto o no, io tiro giù e appartengo a questo movimento. Cioè, no, ho cercato di capire anche le persone che c'erano in mezzo come me, ci sono persone di tutti i profili politici immaginabili, chiunque, ma veramente chiunque. E la cosa che mi è piaciuta vedere è che per una volta non c'è stato nessun litigio politico tra uno e l'altro. Sì, oddio, ci stanno questa anche i più scatenati antagonisti e anche i post neofascisti, ci stanno di tutto, proprio per è trasversale, ci sono anche le punte estreme. Comunque Federico, sentiamo Federico. Buongiorno a voi. Ma sentivo anche il professor Berta, io penso che non ci sia bisogno di fare delle analisi particolarmente approfondite, è chiaro che nel momento in cui... Non è che faccia male alla salute farle? No, assolutamente, ci mancherebbe, però quando si raggiungono dei gradi di disperazione quali quelli che abbiamo raggiunto in questi anni, cioè chiedere del bon ton a della gente anche comune, perché è vero che comunque qualcuno fa una regia, però si unisce molto. Io sono degli anni 70, nessuno sarebbe sognato di scendere in piazza a manifestare se fossero stati chiamati dalle Brigate Rosse, da Ordine Nuovo, eccetera. Qui si è raggiunta un'esasperazione che è pura follia, e nel contempo la gente soffre, ma nota anche, perché se si soffrisse tutti quanti insieme come al tempo della guerra non ci sarebbero queste problematiche. Quello che fa più male è vedere che c'è gente che soffre a fronte di un 10, di un 20% di fortunati. Le posso fare una domanda? Una domanda molto secca. Secondo lei siamo alle soglie di una grossa rivoluzione in senso di cambiamento, o di qualcosa che poi finirà con le feste natalizie, come sempre accade per i movimenti autunnali e invernali? Risposta io secca. Spero con tutto il cuore che si sia di fronte a una grande rivoluzione, ma che non deve riguardare solo il nostro paese, deve riguardare proprio il modo. Io sto crescendo 3 figli e mi rendo conto che per quanto mi sforzi, certi modelli che vengono proposti dalla televisione, da questo e da quell'altro, sono errati, sono straerrati, eppure si insiste su questo. E quindi io mi auguro con tutto il cuore che si sia di fronte a una grande rivoluzione. La ringrazio, morale. La saluto, la sigla ci porta via. Mi sembra che lei ha dato il complemento che serviva a quella che è la nostra, veloce nei tempi che abbiamo, però mi sembra abbastanza equa lettura di quello che sta accadendo. A domani.